giovane di storia della musica. ...1975... Gabicce. Il culto della discoteca arriva dal Mare Grande. Mezzo millennio dopo Cristoforo Colombo, l'oceano si mescola all'Adriatico e restituisce sulle acque basse della Baia degli Angeli le figure di due profeti, DJ Bob Day e Tom Season. Portano la parola del loro tempio, la prima cattedrale della disco music, lo Studio 54 di New York City. E viaggiano come compagni e come amanti nella carovana di Giancarlo Tirotti, il fondatore della Baia Imperiale, il padre della club culture italiana. Tutto comincia da qui e non si ferma più. ...1995, Corte Franca, Brescia. Lo chiamano il luogo dove accade l'impossibile, ma non è un tempio, è un'orgia hardcore. Un baccanale di corpi che si scuotono, si agitano, si urtano, sta per giungere al termine, dopo 12 ore di devastazione senza sosta. Al comando di Tatanka, il grande maestro di cerimonia, migliaia di adepti che pompano anfetamine corrono in cerchio ad invocare ancora musica e bassi e cassa e paste. Poi si riuniscono al centro e cominciano a sovrapporsi, uno sopra l'altro, come una catasta di carne, un'assurda piramide umana. È l'ultimo rito di una notte qualunque, fra le pareti del Number One. Istantanee di storia della musica.

1994, Bisceglie, Bari. This is the moment they've all been waiting for. This is the sound of DJ time. La terra della pizzica e della taranta trema sotto il boom demografico. L'Italia è paese dei ventenni. La notte è il regno dei giovani. La religione officia dalle casse della radio. I nuovi santi indossano cuffie invece di aureole. Le preghiere hanno parole semplici e straniere come rhythm, night, summer, magic, lover. Il sangue di Cristo è un cocktail anacquato e la sua parabola non è universale, è commerciale. Papa Albertino performa la messa davanti a 5.000 fedeli, disposti su 4 piani per 7.000 metri quadri. Il più grande tempio della disco a sud del Tevere. Il Divine Follie. The disco. Polaroid, parliamo del tramonto delle discoteche italiane. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Aulla, Massa Carrara. Poco oltre il torrente, i pullman vomitano a centinaia il loro carico umano decomposto. Vengono per celebrare il nuovo paganesimo, un culto composto di fate, spiriti, folletti e leprecauni. Un culto fatto di storie, cantate da un druido scheletrico accompagnato dal suono dei suoi rapsodi. Franchino, Ricky Leroy, Mario Più. È una nuova Stonehenge, un santuario che non è una meta, ma una porta. Un transito verso l'inizio di un viaggio interiore, progressivo e mentale, che induce ai suoi fedeli uno stato di trance per condurli all'alba attraverso la paura. Paura. Duplè. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Oggi parliamo del tramonto delle discoteche italiane. Lonato, Brescia. Fra i calcinacci e i ferri arrugginiti del cemento armato brilla ancora una colonna dorata, rimasta orgogliosamente in piedi, una delle 20 che svettava sui muri rossi, come quelli di Cnosso e di Pompei. È tutto ciò che rimane della cattedrale di un rito dimenticato, il revival anni 80, fatta di dei sorpassati ma mai dimenticati. Qui, un quarto di secolo fa, sorgeva la discoteca più grande del mondo. Qui, Claudio Tozzo raccoglieva la migrazione settimanale che congiungeva l'est e l'ovest del nord Italia, Torino e Venezia, sulla lingua di cemento chiamata A4. Qui, al posto delle macerie, un tempo sorgeva il Genux. Living on free food tickets, water the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the storm on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm when the hole in your shoe let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live it in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Just as much as she can. Living in the love of the common people. Smiles really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. 1995. Ci sono religioni di massa e religioni d'élite, culti che si celebrano pubblicamente ed altri che si consumano in privato nelle stanze coperte d'oro di borghesia e nobiltà. 20 secoli dopo Orfeo, Osiride, Persefone e Mitra, la classe dirigente si incontra per celebrare in luoghi dai nomi esotici: Piper, Pasha, Hollywood. È la setta degli Yuppies, della ricchezza esibita, della selezione all'ingresso, dei tavoli su invito e bottiglie e modelle e coca e griff e Rolex. Le piccole chiese dell'esclusività, un rito che esclude la massa e una musica che lo distingue. Del tramonto delle discoteche italiane. Now you disappear somewhere. Ultimo Impero, Mazzum, Caffè Soler, Marabù, Woodpecker, Expo, Top Capi, Peter Pan, Illiria, Imperiale. Un tempo basiliche del culto di massa, oggi cattedrali nel deserto, disperse e dimenticate. In questo nuovo mondo di dei digitali non c'è più bisogno di luoghi di culto, di aggregazione, di simultaneità. La funzione si vive individualmente, ovunque, in qualunque momento. Il corpo è immobile, gli occhi sullo schermo. La religione del nostro tempo ha più fedeli di qualsiasi altra. Un unico Dio, la rete, per miliardi di solitudini. Per miliardi di solitudini. Istantanee di storia della musica torna sabato prossimo alle 19 su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105, ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla.